Cox spaziale. Su Radio Città Fujica, Fujico 103.1. Bene, siamo... Non ci riuscirò mai, ci riprovo. Bene, evviva! Evviva! Siamo ritornati sulle frequenze di Radio Città Fujico 103.1. E poi ce l'ho fatta! Coxo spaziale. Coxo! No! La puntata 139esima di Coxo spaziale. Non ce la farò mai, falla tu, dai. Rieccoci in differita radiofonica per la 139esima puntata di Coxo Spaziale, che vede la super mega galattica nonché con conduttrice in veste straordinaria W per aprile, Cleria Sedda. E mi sono persa anch'io. No, 131.1. Ah no, su quello non ci piove, siamo sulle frequenze della super mega galattica Radio Città Fujico 103.1. E fin qui ci siamo. Quello non ci piove. E la nostra casa madre, l'astronave madre a cui noi del Coxo siamo devoti e ritorneremo sempre e per sempre. E per questo mese anche tu, mia cara, certo. Da che c'è il W, tocca. Sono molto molto contenta di questo, sono anche onorata di poter parlare in libertà di tutte le cose che mi interessano e sperare che interessino anche agli altri. Avete sentito che voce? Sì, così, non saprei. E questo mancano... è niente in confronto invece poi... Sì. Parliamo dell'app? Sì, facciamo questa cosa qua perché è un delirio che bisogna raccontare. Avete presente quello che chiamano il davanzale, no? Sì, che c'aveva anche Barbie Barbona. La bambola Barbona, esatto. No, è tutto nato appunto da un errore. C'era un mio amico che mi ha detto: ah, però Clelia, tu non hai investito molto bene i tuoi seni, no? Perché, insomma, non so come dire. Ebbene sì, l'abbiamo detto, stiamo parlando... delle tette! Ma delle tette particolari, le tette di Clelia Sedda. Che argomento meraviglioso di conversazione. No, sono una cosa meravigliosa. Da adesso, per il momento solo per gli iPhone, potrete tutti voi usufruire di un'applicazione fondamentale. No, appunto è nata da questa idea qua, del fatto che sai, le tette non si investono, si danno per amore, no? Sì, le doni per... E allora poi ho pensato, però in effetti potremmo fare qualcosa di buffo, no? Allora ho inventato questa applicazione che parte da questo presupposto. Noi ci rivolgiamo alla scienza per avere delle risposte e delle previsioni sul futuro. Sì. Però la scienza può dare risposte solo statisticamente valide, no? Cioè non ti dice esattamente dove andrai tu, ti dice il 70% delle persone andranno là, ma tu fai parte del 70% o del 30%? I fumatori possono avere delle malattie cardiovascolari. Tu fai parte di quel 70%? Che percentuale sei? Ecco, quindi non ti dà risposte a te individualmente, ma dà risposte statistiche. E a me cosa può importare? Cioè, ho capito, io voglio sapere dove andrò io. Allora, molta gente non si affida più alla scienza, ma alla divinazione. Oroscopo, compagnia bella, capisci? Quindi no? Una sedda esoterica. Una sedda che dà risposte. Allora, ho fatto questa applicazione che si chiama la Tettomante e che si trova su l'iPhone. Bisogna cercare... Lady Indovina, perché quegli stupidi mi hanno censurato un nome così buffo, ed è questa applicazione che dà delle risposte. E cioè, da domani troverete il link su www.coxospaziale.blogspot.com. Cosa succede? Che io mi assumo la responsabilità di dare delle risposte. Cioè, come? Tu entri dentro l'applicazione, hai due tipi di divinazione, una bianca che ti dà delle risposte sempre positive e una nera che ti dà sempre delle risposte negative. Quindi dipende anche dal tuo stato d'animo, certo, dalla tua affiliazione esoterica. Certo, se sei in vena di umorismo e di ironia, bene, altrimenti no. E cosa fai? Tu entri dentro, scegli la divinazione, metti quella bianca, poi scuoti me e si vedono i segni che un po' ballonzola, il décolleté. E da lì esce fuori la divinazione. Eccola qua. Così abbiamo risposto a questo amico e abbiamo investito sulla tetta, sì, ma con un gesto d'amore, perché con queste risposte, certo, tu aiuti le persone. Certo, in qualche modo le aiuto, nel senso che... A me ci ha preso, io l'ho scossa e mi ha dato la risposta giusta. Ma sì, ma anche perché poi le risposte ce le diamo poi noi in base al nostro umore, ecco, diciamo che quando... No, dai, non dire così, tu no, dici la verità. No, io non so perché, ma la gente veramente ci crede e inizia a beccarci, sembra che ci becchi, sai, il caso a volte aiuta. Però c'è anche questa cosa qua che funziona. Quando tu non hai... sai quando sei molto giù, cosa devi fare? Tendenzialmente quando sei molto giù taci, no? Ah. Ti chiudi un pochettino e non cinguetti. No, no, non si cinguetta, non ci, si sta in silenzio. Che cos'è che può aiutare? L'umorismo, l'ironia ci aiuta sempre, hai capito? Quindi la tettomante che dà sempre risposte negative, in realtà sono risposte ironiche, no? Che ti fanno capire anche quanto sia lieve il tuo dolore, quando non è gravissimo, insomma, ovviamente ci sono momenti difficili, però se viviamo dobbiamo anche affrontarli, no? E allora ecco, la divinazione oscura ti fa vedere quanto sei piccolo, invece quella chiara ti dà il coraggio per credere in alcune cose. Da quando sono morto ho una grande pazienza, ho perso l'incoerenza su ogni decisione. Son comodo e sdraiato, son sempre assai mangiato, ho vinto il desiderio, son diventato serio. Da quando sono morto mi sento proprio bene, non soffro più le pene d'amore e di passione. Guardami, sono un morto realizzato. Guardami, sono un morto assai educato, un morto gran signor. Da quando sono morto ho smesso di cercarti, ho smesso di spiarti. Di se non è così, adesso sì che ho tempo parecchio di aspettarti, non devo più sgridarti, sto a posto, fermo qui. Da quando sono morto nessuno mi contesta, a posto la mia testa, non fumo neanche più. Raggiungimi, sono un morto fortunato. Raggiungimi, qui sul tetto tengo il prato, en casa el corazón. Ecco, questo è il tango della pazienza, è un brano che ho scritto con Maria Teresa Scorzoni e che è proprio ispirato all'idea che se vuoi essere perfetto, no, devi morire. Invece se sei vivo tu incontri sempre quella cosa che è considerata l'errore, no? Quindi ami, non riamato, fumi, aspetti, non sei perfetto, ecco. Però sei vivo e questa è la cosa importante per la quale anche hai consacrato buona parte delle tue energie, almeno recentemente, e per fortuna da 3 anni a questa parte questa cosa può essere anche condivisa con, per il momento, la città di Bologna, anche, certo, se in realtà si tratta della giornata mondiale dell'errore. Esatto, tanto per non essere altisonanti, esatto, tanto per non sbagliare, giornata mondiale dell'errore si fa a Bologna, è stata fatta negli ultimi 3 anni, il primo anno in Cineteca e all'Accademia delle Belle Arti, e abbiamo fatto appunto il refuso, la festa delle parole sbagliate, e poi errare in Accademia, no? E invece l'anno scorso è stata dedicata a medicina ed errore fino all'ultimo re, virgola, Spiro, e poi quest'anno invece al potere dell'errore, al potere, un tema terribile, magnifico. Io che poi non riuscivo neanche a leggere Il Principe di Machiavelli perché mi faceva orrore, ho voluto affrontare, perché come al solito affronto argomenti di cui non so assolutamente niente, no? E quindi per farlo ti avvali della partecipazione di ospiti, grandi esperti, esatto, perché l'idea è questa: dobbiamo unire il basso, cioè l'argomento da salotto che fa ridere, eccetera, con argomenti alti. Allora, per esempio, c'è stato Gianumberto Cinelli, che è anche ospite spesso vostro, credo che abbia una... è un entomologo... Nella grande Radio Madre, Radio Città Fujiko, 103.1, salutiamo. Gianumberto Cinelli, questo entomologo che ha fatto una cosa magnifica sul potere dell'amore, il feromone. Perché devi sapere che noi, i nostri comportamenti non sono totalmente liberi, cioè molto spesso sono governati in modo inconsapevole da sostanze odorose che volteggiano nell'aria, come il ferormone, che sono emessi da particolari ghiandole e hanno un grandissimo potere, per cui noi pensiamo, per esempio, tu ti innamori di uno, no? Tu pensi che sia una scelta libera. No, non è vero! È tutta un'illusione, il ferormone che ci conduce. E poi, una volta che noi siamo condotti, passivamente cerchiamo di dargli un significato, una dignità con la poesia, le canzoni, eccetera. Però è una cosa che pensa che una dottoressa ha messo alcune gocce di ferormone nei sedili di un cinema, no? E in un posto assolutamente scomodo, quindi i posti in fondo, quelli che non c'è nessuno, a parte quelli a pomiciare. Esatto. Però l'ha messo in un posto oscuro, ma non si sa perché sia stato il primo ad essere occupato. Oppure ha messo delle gocce di ferormone in una cabina telefonica. Il tipo è entrato, è rimasto così imbambolato per un bel po' di tempo, non si sa perché. Perché? Perché noi non siamo condotti da scelte consapevoli, ma molto spesso siamo condotti appunto dal ferormone, il potere dell'amore. E quindi questo è un consiglio, una riflessione che ci giunge particolarmente utile adesso a primavera. Esatto. Che cominciamo a sbracciarci. Esatto, non lavatevi perché abbiamo il profumo più forte del mondo, cioè spendiamo 3 miliardi all'anno per profumi inutili quando abbiamo invece un profumo fantastico che è solo nostro e magari riesce a captare anche quello che è più attratto dalla nostritudine. Esatto, la nostritudine. E non sapremo mai, no? Perché, però comunque sia, non sapremo mai se la persona tratta da noi o quella persona che ci attrae sia proprio quello giusto, perché non c'è sempre quello sbagliato. Sì, ma appunto, per approssimazione, io credo molto nel potere del pianeta. Anch'io abbastanza. Senti, poi ti devo raccontare questa perché cioè, tu conosci Vincenzo Branà? Adesso me lo fai conoscere meglio. Assolutamente sì, è un blogger, giornalista ed è anche presidente del Castro di Bologna, no? È cara, è avamposto storico del movimento omosessuale. Ecco, gli ho detto fai una cosa sulle lobby gay, gli ho intitolata L'H-Hobby Gay, no? Lobby gay. E allora ha raccontato questa cosa magnifica lui, cioè ci sono teorie del complotto incredibili, lo sai, no? Si sono insinuate delle teorie straordinarie, però nessuno sa che c'è un'isola solo per gay e lesbiche, che prima era un'isola che un miliardario appunto ha messo a disposizione per loro, sempre anche lui omosessuale, e che prima era basata sulla democrazia, invece poi subito immediatamente lui è diventato il monarca, il re, e non basta, perché non solo è diventato il re, ma ha deciso di governare l'isola, non dall'isola stessa, se n'è andato in un'altra, si è spostato, si è autoesiliato. Cioè, è magnifico, hai capito? Come diceva... Ma questi gay e lesbiche, immagino, sudditi, cosa... Questi, guarda, io vorrei diventare lesbica per provarlo, ci voglio andare, diventiamo lesbiche, Fedra. Per un pochino. Ma poco. Sì. Allora, un altro progetto da mettere in cantiere. Poi nel Pacifico. Esatto. Giusto? No, ma è stupendo perché se ci pensi, no? Non ci sono api operaie nel mondo gay, sono tutte api regine. Ah, beh, effettivamente una democrazia di regine. Esatto. La monarchia a turno? Esatto, a caso, capito? Ne estrai una casa e lo fai diventare re. Per un tot, così esatto. Ciascuno si misura con la gestione, avendo avuto la prima. Insomma, secondo me questa cosa delle turnazioni funziona. Funziona anche perché uno dei grandissimi errori che ha il potere ora, no? È quello che è diventato un privilegio, però nessuno si assume la responsabilità. Cioè, l'idea del potere che io ho è questa. Bene, tu guadagni un pacco di soldi, hai una grande responsabilità, hai molto onore. Beh, la tua vita deve essere un inferno. Cioè. Devi assumerti la responsabilità di gestire il potere. Invece, paradossalmente, chi gestisce il potere molto spesso pensa che sia gli sia arrivato per grazia divina, capito? L'unto dal Signore, no? Non so se ti ricorda qualcosa. Sì, qualche cosina di monarchico, ecco. Medievale. Esatto, sì, vicinissimo di 10 anni, neanche 5 anni fa. Cioè, crede che veramente di essere meritevole, no? Simpatico. Sì. Ma allora, senti, questa cosa, questo pensiero nefasto, ma aiuta. Ho aiutato a ricondurci in quello che devo spremere da te. Dimmi, perché cara. Questo è quello che è stato. Tra l'altro quest'anno è stato il 29 febbraio. No, non so se mi spiego. C'era quest'anno. Ma prossimamente cosa ci sarà? Allora, il primo appuntamento è il 12 ottobre con il Columbus Day, perché come ben sai Cristoforo Colombo è quello che ha preso le più grandi cantonate, era convinto di andare in un L'Indie. Posto, sì, invece Cipango, lui era convinto, capisci? Poi a 40 anni, poverino, con la gotta, cioè quando ormai a 40 anni si era già finito. All'epoca sì. Sì. E quindi però insomma questo eroe, no, che ha preso una sbadilata di cantonate, ha elemosinato per 20 anni, un sovvenzionamento che non gli è stato concesso, poi gli danno tre scrausissime caravelle, no? e scopre l'America. E quindi io stavo pensando di fare proprio una giornata dedicata agli erranti, no? Perché il come errore erranti, vagare alla ricerca di se stessi. E vedi come c'è questa ciclicità che insomma abbiamo affrontato questo tema all'inizio della puntata e mo adesso ce lo ripetiamo. Ce lo ritroviamo tutto, perché poi noi siamo, ma secondo te, cioè noi nasciamo cercando di diventare uomini o donne, no? Cioè, ma non è che c'è un manuale, quindi siamo costretti a viaggiare attraverso la nostra caravella, che è il nostro corpo, e ritorna anche quello, no? e viaggiare e scoprire nuove strade per la nostra vita lontana. E a questo punto io metto un brano perché non posso sublimare oltre. Esatto. Beccate questo. Mi sembra un sacrilegio abbassare il volume su questo brano, però i tempi radiofonici incombono, purtroppo la puntata sta per finire e comunque ho voluto donarti un po' di questo Zara. Bellissimo. Del Quinto Rigo. Meraviglioso, un testo fantastico, puoi interpretarlo come ti pare, capisci cosa ho detto? L'ho messo anch'io, meraviglioso, grazie John DeLeo, grazie Quinto Rigo. Grazie Clelia. E grazie a Clelia Sedda che ha messo finalmente il W, finalmente, nel senso che sì, l'aveva già messo la settimana scorsa, però poi è che noi adesso questa è indifferita, la settimana prima abbiamo fatto quella insomma vabbè, sono un po' confusa, sì, sono un po' confusa, ma sono emozionatissima e gratissima e simissimissimissima. Guarda, e sei proprio esattamente perfettamente in tema con l'errore, tu non so se dovresti essere una paladina, una rappresentante, uno stereotipo dell'errore, tipo qualcosa che tu sei la regina, esatto. E io sono la principessa, oppure no, la delfina. Ma volevo vestire l'armatura, offrirti un po' una cavaliera. Sì, sto aspettando l'ultima serie di Games of Thrones. Anch'io lo vedrò. Tu sei un errorista perfetta. Grazie. Tra l'altro, guarda, stavo pensando a questa cosa qua. Sei gli psicologi, no? Fanno un lavoro egregio, cioè cercano di darti delle indicazioni. Però l'errore, no? È parte della condizione umana e non è un limite momentaneo che noi possiamo superare una volta per tutte, ma è un risvolto dell'esistenza che ci porta a vagare per sempre, no? E che ci rende impegnati nel compito di diventare donne, capito? E donne le donne, uomini gli uomini, no? E no, tutte donne. Tutte donne, diventiamo tutte donne. E però questa cosa qua ci mostra proprio l'errore che è insito in questa ricerca, no? Che non ha mai nulla, niente di garantito, di stabile, di definitivo, e che ci segna proprio come esseri vulnerabili e fallibili. E forse è proprio dentro questa fallibilità che c'è la nostra bellezza, perché tu prova a immaginarti se fossimo tutti uguali, no? Tutti perfetti, un incubo. E questo mi lascia anche presagire che, ok, la 139esima puntata di Coxo Spaziale purtroppo si chiude e ne avremmo avuto ancora tante da dire, ma fortunatamente c'è ancora la 140esima in cui Clelia Sedda vestirà nuovamente il W. E pensati un poco, sì, anche ospiti della prossima puntata ci saranno delle psicologhe. Fantastico! Bellissimo! Ci rivediamo tra 7 giorni e da domani su www.coxospaziale.blogspot.com tutti i link, anche quello per riascoltare la nostra strepitabile. Più di te, sempre uno più di te, da grande se avrei l'autorità, non giochi più tutta la vita, maestra, il bambino marrone ci sputa, vedrai adesso ti metti a posto, maestra, perché ce le dai, tu no, come no? Vedi come sono bravi? Bravi tutti uguali. Vedi come sono bravi? Va bene, strani tutti uguali. Ci vuole un po' di mano. Tu no, tutti tranne te, noi sì e tu niente, da grande se potrei ti imparerai, parli anche tu la nostra lingua, papà, il bambino marrone ci puzza, vediamo adesso